Europa 24. Un saluto da Cristina Carpinelli. Europa tra le tensioni, dalla Brexit ai migranti. Oggi giornata di faccia a faccia a Berlino, la cancelliera Angela Merkel e il premier italiano Matteo Renzi. In questi minuti a Bruxelles l'incontro tra il premier britannico Cameron e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Due incontri al vertice, due speranze di intesa. Proprio in queste ore, qui a Bruxelles, il premier inglese David Cameron sta vedendo il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Nel frattempo, a Berlino, la cancelliera Angela Merkel sta avendo un pranzo di lavoro con il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Nel primo caso, sul tavolo, c'è la rinegoziazione dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Nel secondo, in ballo, c'è una soluzione, fosse solo temporanea, delle tensioni che da mesi ormai segnano il rapporto tra Germania e Italia. Previsioni sono difficili. Sul fronte inglese vi sono spiraglie di un'intesa. L'ipotesi è di concedere alla Gran Bretagna e agli altri paesi europei maggiore flessibilità nel trattare gli stranieri sul territorio nazionale. Un'intesa è prevista in un vertice a 28 a metà febbraio. Sul versante italo-tedesco la speranza è che i due capi di governo trovino un accordo sui 3 miliardi di euro da concedere alla Turchia per meglio frenare l'arrivo di migranti dal vicino Oriente. L'Italia ha finora bloccato l'intesa, in parte anche per strappare concessioni tedesche sul modo in cui applicare le clausole di flessibilità nella gestione del bilancio pubblico. Quanto il premier Renzi riuscirà ad ottenere oggi a Berlino e domani a Bruxelles è tutto da capire. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Non è più un tabù intanto la discussione su un'Europa a due velocità, la definizione non è la migliore, ma è giusto discutere di livelli di integrazione diversa, dice oggi il ministro degli esteri Gentiloni. C'è chi, come l'Italia, spiega, vuole un'unione bancaria, fiscale, politica crescente, e chi, come il Regno Unito, vuole solo un mercato comune più efficiente. Due visioni che devono e possono convivere. Con l'Europa al bivio si rafforzano le alleanze tra i partiti antieuropeisti. A Milano a chiamarle a raccolta Matteo Salvini e Marine Le Pen. Raffaella Calandra. Marine Le Pen lo rivendica con orgoglio. Se la Svezia ci avesse ascoltato, marca la leader del Front National, oggi avrebbe evitato la brutta figura delle espulsioni. La politica dell'accoglienza di massa dei profughi è il principale bersaglio dei movimenti euroscettici, riuniti a Milano nella prima convention dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà che li raggruppa. Una politica che sta distruggendo l'Europa, concordano i leader ultranazionalisti di Francia, Italia, Olanda, Austria, perché non riesce a bloccare l'islamizzazione in atto, dicono, perché l'Islam è incompatibile con le libertà dell'Occidente, rincara l'austriaco Strache, perché lasciare le porte aperte ha provocato, stima Matteo Salvini, 25 milioni di disoccupati in Europa. E questo è l'affondo del segretario della Lega e un altro crimine di Bruxelles, che accusa di essere complice del califfato e per questo ancora non si interviene in Libia. Così come di complicità col terrorismo, il leader del Carroccio accusa il premier italiano, andato a Berlino per discutere con Angela Merkel, anche dei finanziamenti alla Turchia perché contenga il flusso dei migranti. E insomma, è un'Europa federale delle nazioni, quella tratteggiata da questi partiti, tutti in crescita, dove non c'è più spazio per l'euro, che morirà a breve, prevedono, e dove i confini torneranno al posto di Schengen, dato ormai per finito. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte economico l'inflazione a gennaio sale allo 0,4% dallo 0,2% di dicembre, secondo la stima flash di Eurostat. Il tasso più elevato è per i servizi, seguito da cibo, alcol e tabacco. Dai terroristi islamici al boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, un sito voluto dalle polizie dell'Unione Europea mette in rete intanto da oggi le foto dei più ricercati d'Europa. L'obiettivo delle forze dell'ordine è ottenere la collaborazione dei cittadini nelle indagini per trovare i fuggitivi. Questa era l'ultima notizia, l'Europa torna questa sera ad effetto notte. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.